L'arcobaleno è la mia scia, che navigo in cerca di quella montagna. Le luci all'alba, melodia, mi portano indietro ad un tempo passato. Colori immersi nella scia dell'arcobaleno che gioca nel cielo. Il vento mi sospinge via, raggiungo le onde dei sette mari. Gli uccelli che volano alti nel cielo d'Oriente, la rotta è sicura, quell'isola.